Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, nuova puntata di Globetrotter 24, questa volta andiamo al freddo. Annarita, questa volta andiamo in Norvegia e in Svezia. Sì, abbiamo scelto due paesi perché sono vicini, perché sono anche molto legati tra di loro. La mia è una segnalazione che ti stupirà davvero tanto, è un posto nel quale vorrei tanto andare, quindi mi sono anche fatta aiutare da un ospite. Anna, non mi dire niente della tua destinazione perché non voglio ancora avere anticipazioni. Anche io mi sono fatta aiutare, però, perché la Norvegia non la conosco e non volevo andare ad Oslo perché Oslo è già troppo conosciuta. Allora, ho cercato questo Alessandro Rossini, che è un ingegnere che vive in Norvegia da quasi 10 anni e che ha passato i primi anni della sua nuova vita, chiamiamola così, in Norvegia, a Bergen. Io nel 2005 avevo deciso di fare un Erasmus e tra le varie destinazioni avevo scelto la Norvegia come prima destinazione, in particolare Bergen. Sono rimasto lì per un anno a fare l'ultimo anno della mia laurea specialistica. Poi sinceramente non avevo intenzione di tornare in Norvegia. Poi però uno studente norvegese che aveva studiato con me mi aveva informato della disponibilità di posti come ingegnere informatico. Io ho studiato informatica. E allora l'offerta era troppo bella per essere rifiutata e così ho deciso di tornare in Norvegia nel 2007 e lì mi sono trasferito in pianta stabile. Allora, il tuo viaggio comincia da Bergen ed è proprio da qui che noi vogliamo partire per raccontare un po' questo paese. Intanto, qual è stato il tuo impatto con questa città? Allora, la città Bergen non è troppo grande, diciamo Bergen fa più o meno 300.000 abitanti, quindi è una città vivibilissima in cui si possono comunque conoscere nuove persone tutto il tempo, però incontrare anche per caso persone che già conosci in centro, nei vari locali o all'università. Quindi diciamo è una città che per quelli che sono i miei gusti è veramente a misura d'uomo. E poi, che dire, il primo impatto ovviamente per me è stata la mia prima esperienza all'estero, quindi c'erano una serie di differenze culturali, differenze geografiche, differenze proprio di modi di fare, di costume, che comunque erano all'inizio magari difficili da capire, però con il tempo poi ci si adatta facilmente, perché comunque i norvegesi, come un po' anche lo stereotipo diciamo internazionale, sono delle persone molto riservate, però il fatto che siano riservate non vuol dire che siano delle persone fredde. A mio avviso questo è un po' un mito, il fatto che i norvegesi siano persone fredde. Sono persone che comunque richiedono un determinato tempo per entrare in confidenza con te come con qualsiasi altra persona. E questo esula dal fatto che comunque io potessi essere uno straniero e che quindi aumenta le distanze. I norvegesi comunque anche tra loro richiedono parecchio tempo per entrare in confidenza. Mangiare tutti insieme in Norvegia, per esempio, ecco, è una cosa che non si fa molto spesso, anche in diciamo appartamenti condivisi da studenti. Se tu dovessi consigliare a chi arriva a Bergen tre cose da vedere, perché magari non ha moltissimo tempo per la città, che cosa consiglieresti di vedere? Diciamo che vanno viste in assoluto la piazza principale che si chiama Torgallmenningen, dove è, diciamo, dove c'è un po' il punto di ritrovo per tutte le persone che sono a Bergen, sia le persone che ci vivono sia per i turisti. Da lì poi bisogna assolutamente andare verso Bryggen, che è il quartiere anziatico, dove ci sono queste casette di legno che hanno ormai centinaia di anni e che sono molto caratteristiche, che sono anche patrimonio dell'UNESCO. e poi da lì ci si può fare una passeggiata per le viuzze, diciamo, delle case che si estendono sul lato della montagna o della collina, se vogliamo. Loro la chiamano montagna, ma in realtà è una collina, che si chiama Floyen. E lì si può salire proprio sulla vetta di Floyen, dove c'è il Belvedere. Belvedere che tra l'altro è stato anche incluso nel film La meglio gioventù. E lì c'è una vista meravigliosa, di quelle che non si dimenticano mai. E quindi una volta che stai lì puoi anche decidere di magari vederti anche la vista da un'altra delle montagne, che si chiama Ulriken, e anche lì, insomma, c'è una vista meravigliosa, e quando sei lì sopra riesci a vedere tutte le isolotti, gli isolotti davanti a Bergen, vedi il mare Atlantico, vedi questi colori che sono molto intensi, diciamo più intensi di quelli che puoi vedere per esempio in Italia, un'atmosfera diversa, e quando sei lì sopra, insomma, talmente bello che per un attimo tutti i tuoi problemi svaniscono, per almeno qualche minuto. Quindi queste sono le tappe fondamentali. Senti Alessandro, vorrei che tu ci aiutassi a sfatare due miti, se possibile, negativi. La cucina e i prezzi alti. Allora, la cucina, non so se posso sfatarvi il mito in realtà, perché anche i norvegesi, la cucina norvegese non è che la mangino tutti i giorni, in realtà loro si affidano molto a cucine internazionali, che sia la italiana, l'indiana o comunque altre cucine di tutto il mondo, ma la cucina tradizionale norvegese non è una cosa che trovi tutti i giorni nelle case norvegesi, anzi dovrei dire il contrario, è una cosa che non c'è molto spesso. Io devo dire che, allora, se devo spendere una parola a loro favore, è una cucina semplice, però basata su ingredienti buoni. Cioè una semplice trota salmonata al forno, però una trota salmonata di quelle selvatiche, basta metterla in forno con un po' di contorno e un po' di spezie ed è buonissima e non richiede nessun tipo di sforzo. Loro mangiano molto il pesce, ovviamente, che è uno dei principali articoli di esportazione della Norvegia. Poi mangiano parecchio agnello, anche lì stesso discorso di prima, cucina molto semplice, anche l'agnello lo fanno in maniera molto semplice, o stufato o al forno, però devo dire che, diciamo, a me personalmente piace, però riconosco che non è una cosa che magari, specialmente l'agnello, che potresti mangiarti, insomma, tutti i giorni. Per quello che riguarda i prezzi, sì, sono alti, sono adesso un po' meno alti di quanto non lo fossero 2 anni fa, perlomeno per chi viene dall'Italia, perché il tasso di cambio tra l'euro e la corona è cambiato ultimamente per via della crisi e dell'abbassamento del prezzo del petrolio, e per cui adesso un euro vale 9,2 corone più o meno, quando già 2 anni fa un euro valeva 7,3 corone, quindi c'è una differenza importante di prezzo. Però nonostante questo, se tu vai per esempio in qualsiasi bar di Bergen o ancora peggio di Oslo, una birra, mezzo litro di birra, ti può costare tranquillamente 10 euro. Un bicchiere di vino ti può costare tranquillamente 10 euro. Sai, nemmeno io conosco, Valeria, tanto bene la Norvegia, quindi le segnalazioni che ci hai dato sono particolarmente interessanti. Però io sono anche molto incuriosita sull'aspetto enogastronomico della Norvegia e della Svezia, dove ti porterò tra poco. Quindi direi che possiamo dare la linea al nostro gastronauta Davide Paolini. Negli ultimi anni veramente questi paesi nordici, che abbiamo sempre trascurato dal punto di vista gastronomico, sono alla ribalta. Sono alla ribalta per tante motivazioni, perché c'è una scuola, chiamiamola nordica, Nordic Cuisine viene chiamata, che è salita alla ribalta con una cucina tutta basata sul prodotto selvaggio. Si è sviluppata una cultura che è la cultura del foraging. Il foraging cosa sarebbe? Sarebbe la raccolta di prodotti selvatici fatti con grande attenzione e con grande cultura. Ebbene, diciamo sia svedesi che norvegesi, ma anche i danesi, hanno riscoperto muschi e licheni, per esempio, quindi muschi, licheni, erbe selvatiche che sono riproposte. Però questi paesi sono molto ricchi di materie prime tradizionali, soprattutto il pesce. Qui abbiamo salmoni, aringhe, aragoste, gamberetti, e abbiamo anche una carne molto, molto particolare, perché qui abbiamo carne di alce, carne di renna, carne di cervo, carne di appunto, dicevo, carni che di solito da noi non si mangiano e alcuni si rifiutano di mangiare. Però c'è anche una carne di agnello in Norvegia in particolare, che è considerata tra le migliori del mondo, quindi diciamo le materie prime sono davvero straordinarie. Poi c'è lo stoccafisso. Lo stoccafisso, specialmente in Norvegia, c'è un'isola che si chiama l'isola di Lofoten, dove arriva quasi tutto lo stoccafisso diciamo che mangiamo in Italia e forse anche nel resto del mondo. Stockfish, da cui è nato lo stoccafisso, cos'è? Praticamente è un merluzzo che viene messo all'aria aperta, quindi si asciuga completamente, prende un sapore molto particolare, e noi lo scambiamo sempre col baccalà, al punto che in Veneto viene chiamato baccalà quello che in realtà è stoccafisso. Viene messo sotto sale altrove, però qui invece viene usato appunto come un pesce all'aria aperta, che assume tutto quello che porta il vento e tutto quello che porta l'aria, quindi ha un sapore davvero molto molto molto particolare. E queste sono le basi un po' di queste due cucine, cioè si può alternare tra carne e pesce, sono diciamo abbastanza simili le due cucine della Norvegia e della Svezia. E qui si bevono per bere delle ottime birre artigianali. Anna, meno male che Davide ci ha dato qualche incoraggiamento in più, perché come avrai sentito il mio ospite è rimasto un po' tiepido sulla cucina norvegese, anche se lui ormai si è abituato e ci ha anche sottolineato alcuni pregi di materie prime norvegesi. Ci fermiamo per qualche istante, restate qui. Globetrotter 24. Rieccoci al freddo, puntate al freddo tra Norvegia e Svezia, è il mio momento della Svezia, Valeria, e io ho scelto una segnalazione secondo me di un posto straordinario con un ospite, come ti dicevo. La città si chiama Kiruna, ma non è l'obiettivo e la meta finale del nostro viaggio, perché Kiruna è un posto dal quale raggiungere un parco in cui si può vedere in alcuni momenti dell'anno l'aurora boreale, e lo spettacolo è davvero unico al mondo. Mi sono fatta aiutare, come ti dicevo, da un ospite, Karin Melin, responsabile della comunicazione dell'ente del turismo svedese. Ciao Karin. Ciao. Allora Karin, io mi sono incuriosita molto su una destinazione particolare che si chiama Kiruna, dalla quale poi si può raggiungere un posto dal quale poter vedere, se si è fortunati, l'aurora boreale. Innanzitutto è la Lapponia svedese quella zona lì. Sì, è giustissimo. E Kiruna è la città più settentrionale della Svezia e si arriva via Stoccolma in aereo. E si trova a 200 km sopra il circolo polare. Ecco, la paura dell'eccessivo freddo come la si può superare? Ma certamente può fare molto freddo, può scendere fino a 40 gradi, ma diciamo che la media è intorno a 10 gradi sotto zero. E comunque è un freddo molto secco, perciò si sente molto meno paragonato a tante città in Europa. Qual è il periodo nel quale visitare Kiruna? Mi sembra di capire che ci sono delle possibilità sia in estate che in inverno. Assolutamente. D'estate la cosa bella è che si può vedere qua il sole di mezzanotte. In pratica da maggio a luglio fa mai buio. E poi invece da ottobre a marzo abbiamo la possibilità di vedere il fantastico aurora boreale, che si vede dappertutto, si può vedere dappertutto sopra il circolo polare. Kiruna in realtà è una città industriale. Sì, Kiruna è stata fondata perché hanno trovato ferro alla fine dell'Ottocento, perciò la miniera di ferro, che adesso è anche molto molto importante, è la miniera sotterranea più grande al mondo. E una cosa molto interessante è che questo giacimento, dove appunto hanno scavato da 100 anni, si è esaurito e hanno trovato un nuovo giacimento che è sotto il centro di Kiruna. Perciò stanno spostando tutta la città per poter continuare a tirar fuori questo ferro. Ma non è propriamente una città turistica, però ci sono delle strutture. Sì, assolutamente. Quando si arriva spesso tardi la sera, ci sono diversi hotel dove pernottare, c'è una bellissima chiesa di legno assolutamente da visitare e si può anche scendere nella miniera, che è una visita molto particolare. E poi da lì si può partire e visitare diversi posti, sia d'estate che si ha voglia di camminare nei parchi nazionali, andare ai grandi fiumi per fare il rafting oppure andare in canoa, pescare, che chiaramente qua ci sono grandi possibilità per chi ama pescare. E poi abbiamo questo famosissimo Lukkasjärvi, questo paesino solo a 15 minuti da Kiruna, dove viene costruito ogni anno, ogni inverno, l'albergo di ghiaccio Ice Hotel. Ecco, l'Ice Hotel mi incuriosisce tantissimo perché d'estate non c'è, si scioglie. Si scioglie, si inaugura, si comincia a costruire fine ottobre, inizio novembre, dipende quanto freddo fa, no? E poi viene utilizzato fino a fine marzo, inizio aprile comincia a sciogliersi, tutta l'acqua torna nel fiume di Torne, dove si prende questi grandi blocchi di ghiaccio. E poi d'estate appunto si fa tutte le attività nel fiume, torna al fiume. Però da questo inverno, adesso in questo momento, stanno lavorando per aprire una struttura che sarà aperto tutto l'anno, 365 giorni. Perché come ho detto, il sole appunto questi mesi non tramonta mai e con un impianto ad energia solare questo permetterà appunto di tenere aperto tutto l'anno per vivere l'esperienza di ghiaccio permanente. Molto interessante, siamo molto curiosi di vedere il risultato. Grazie di questa informazione che mi sembra un'assoluta novità. Quindi, allora, dall'Italia noi prendiamo un volo per Stoccolma, poi raggiungiamo Kiruna e poi per vedere l'aurora boreale in che posto dobbiamo andare e in che periodo dell'anno? Allora, l'aurora boreale si vede meglio da ottobre a marzo e appunto si può vedere subito lì a Kiruna, poi all'albergo di ghiaccio che organizza diversi tour, ma il posto migliore è di andare verso il confine norvegese nel parco nazionale che si chiama Abisko. Si prende un treno oppure si noleggia la macchina da Kiruna, un'ora e mezzo appunto verso Norvegia, e troviamo lì questo piccolo parco dove c'è anche una struttura, ci sono diverse strutture per dormire. E lì c'è un monte Noelia, si può salire in alto, c'è una seggiovia che ti porta lì in 20 minuti, mezz'ora, e c'è una piccola casa dove si può aspettare per vedere uscire l'aurora, puoi camminare in alto su questa monte nella neve e aspettare l'aurora. Oppure tutto è attorno a queste strutture sul fiume, perché lì questo posto è proprio un clima molto secco e priva di inquinamento atmosferica e luminoso, c'è questo poca luce solo da queste strutture, è un piccolo paesino, e è proprio un fenomeno molto molto comune. E da pochi anni che questo turismo di aurora boreale è esploso, organizzano anche tour fotografiche, no? E si esce con un fotografo esperto per imparare come fotografare l'aurora. Karin, e... voglio farti altre due domande. La prima è: secondo te è un viaggio di quanti giorni questo per vedere l'aurora boreale o per visitare Kiruna e dintorni? Ma io direi 4 giorni comunque ci vorrà. Deve stare comunque 2 notti, meglio 3 se possibile a Abisko, se si è sicura di vedere l'aurora. E poi appunto una notte a Kiruna, a visitare Ice Hotel o in giornata, oppure dormire lì. Io direi 4 giorni. Minimo. Senti, e poi l'ultima domanda è relativa ai costi. Cioè, è una vacanza solo per persone facoltose o secondo te ci sono delle soluzioni un po' per tutti? Chiaramente costa un po' perché è un'esperienza molto, molto, molto particolare. Ci sono comunque, non devi dormire all'Ice Hotel, puoi dormire in cottages a Kiruna, che decisamente costa meno. E anche lì all'Abisko, al Tourist Tahoe, che è questa struttura che è proprio dentro il parco, hanno varie possibilità per pernottamento. Hanno anche ostello, cioè da chalet a ostello a camere di albergo. E puoi anche comprare cose da mangiare, se non vuoi mangiare al ristorante. So, sicuramente tutti comunque possono vivere queste esperienze, anche se hai un portafoglio diverso. Anna, che meraviglia! L'ho detto anche prima, è stata proprio un'esclamazione di cuore, perché ogni volta che vedo le immagini, le foto dell'aurora boreale, quello che penso è come mi piacerebbe almeno una volta nella vita fare un'esperienza di questo tipo. Io adesso, Karin, non la mollo più, perché ci devo andare. Una volta trovata. In questo caso, il nostro amico Salvatore Carruba ha scelto proprio delle segnalazioni relative a Kiruna. Kiruna ci porta al centro di un nuovo genere letterario che ha avuto molta fortuna, i gialli di ambientazione nordica, anzi artica, su cui ormai sono nati moltissimi titoli e sono cresciuti tanti personaggi e tanti autori. Una è Asa Larsson, avvocato e scrittrice svedese, che ha dato vita al personaggio appunto di un'avvocatessa, Rebecca Martinsson, che troviamo come procuratrice proprio a Kiruna in alcuni libri pubblicati da Marsilio, Finché sarà passata la tua ira e Il sangue versato, sacrificio a Moloch, che richiama anche il passato minerario di questa città. Se andate a Kiruna per vedere l'aurora boreale, aurore polari, ottava meraviglia del pianeta, viaggio al centro delle aurore tra scienza, letteratura, arte e mito, vi può essere utile. L'autrice è Ada Grilli ed è pubblicato da Leading Edizioni. A Bergen non perderete la visita del famoso mercato del pesce. Allora potrete incontrare Massimo Toffoletto di Treviso, pescivendolo e ricercatore universitario, che qualche anno fa ha scoperto Bergen e ha scritto Il pescivendolo italiano in Norvegia. È pubblicato da Aurelia, che rievoca quell'ambiente affascinante da parte di un personaggio che lo frequenta appunto come venditore di pesce, senza trascurare i suoi studi sulla letteratura russa. E allora, nel ringraziare come sempre il nostro Salvatore Carruba per le sue segnalazioni, ci soffermiamo adesso su alcuni aspetti strani, su alcune cose particolari da fare in Norvegia e Svezia. Pulpit Rock, in Norvegia. Si trova nel fiordo di Lise, a un'altezza di 604 metri. Il vero nome è Preikestolen, una roccia gigante a picco sul golfo vicino alla città di Stavanger. Se non soffrite di vertigini, potrete guardare il panorama senza barriere o recinzioni per proteggervi dalla caduta fatale. La metropolitana di Stoccolma conta più di 100 stazioni e almeno 90 contengono elaborate installazioni di arte contemporanea. Quindi viaggiare in metropolitana a Stoccolma è come visitare una galleria d'arte in movimento, e ciò permette a chiunque di godere di incredibili mosaici, dipinti, installazioni e sculture. Il sistema di metropolitana fu creato nel 1941 e aperto al pubblico nel 1950. Avete mai pensato che fosse possibile andare in spiaggia a Stoccolma? Ebbene, si può. Sull'isola di Langholmen c'è una spiaggia molto carina. Ci si può rilassare e fare il bagno, se siete coraggiosi a sufficienza e non temete la temperatura dell'acqua. Se il freddo invernale di Stoccolma non vi basta, allora potreste fare una puntatina all'Absolute Ice Bar, che trovate all'interno del Nordic Sea Hotel, in centro città. Che sia estate oppure inverno, qui troverete sempre vodka svedese a fiumi e una temperatura pari a meno 7 gradi. Ma non preoccupatevi, all'entrata vi forniranno giaccone pesante e cappello di pelo. L'entrata costa 15 euro e include il primo shot di vodka. Se quando eravate piccoli guardavate Pippi Calze Lunghe e sognavate le sue avventure, questa è la vostra occasione per rivivere quelle emozioni. Junibacken a Stoccolma non è un vero e proprio parco divertimenti, ma un grande spazio che rende omaggio ai personaggi creati dalla svedese Astrid Lindgren. Oltre alla casa gialla di Pippi e al cavallo a chiazze nere, potrete salire sul treno Sago Taget, che vi porterà sopra ai tetti e alle scenografie delle varie storie, per bambini e per tutti i grandi che si sentono ancora bambini. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata, di questo appuntamento al freddo di Globetrotter 24 tra Norvegia e Svezia. Vi ricordo solo il nostro indirizzo email globetrotter24@radio24.it. Alla prossima puntata.